25. Le lanterne dei pescatori sfilavano sul lago e contendevano il primato agli astri. Oltre le fiamme che ravvivavano l'accampamento, acqua e terra si scambiavano i ruoli. Era il lago a sembrare una cittadina e i villaggi costieri piccole flotte in viaggio. Il concilio volgeva al termine. Una notte di festa e poi, all'alba, ogni guerriero avrebbe scelto per sé. La lunga casa non prendeva decisioni che non fossero unanimi e i Sakem si erano trovati d'accordo su una cosa soltanto: accettare i regali della corona e ringraziare per il pensiero. Canti, danze, giochi d'azzardo, racconti di ubriachi, interpretazioni di sogni e il cerimoniale comico degli sciamani Seneca. Guy Johnson si sarebbe risparmiato volentieri tutta la trafila, aveva già fatto i conti. 200 guerrieri era il massimo che potesse aspettarsi. Seneca nessuno, Mohawk meno di un centinaio, gli uomini di Brent. Dalle altre nazioni, briciole, parenti dei Mohawk, amici personali dei Johnson, uomini vincolati da antichi patti o da sogni recenti. Sir William ne avrebbe convinti il triplo con una mezza frase. Ecco perché non poteva andare da sua moglie, non poteva disertare il rituale, doveva mostrarsi cortese coi vivi e devoto agli antenati se non voleva arrivare a Montreal da solo. Bisognava tenere caldo il cuore degli indiani e ancor più le budella. 80 galloni di rum, la Santa Barbara della serata. Vino di Madeira, riserva speciale di Guy Park. Sperava di poterlo stappare, brindare alla nascita di un maschio. L'avrebbe chiamato William per rafforzare l'immagine di una dinastia forte di vita e speranze. Nancy Claus accolse la donna in anticamera. «Dio sia lodato! Siete la levatrice?» Lydia Devon strinse una mano ossuta, che le ricordò una zampa di uccello. «Sono la sorella della signora Johnson. Venite, i dolori sono cominciati». «Da quanto?» Lydia si tolse il pastrano e seguì Nancy nella stanza da letto. «Un paio d'ore», rispose quest'ultima, tradendo l'ansia. Mary era stesa sul letto, le mani avvinchiate al lenzuolo e il volto tirato. Un'indiana di bassa statura le tergeva il sudore dalla fronte con una pezza bagnata. Nancy la presentò. «Questa è Tabby. Ci ha sempre assistito in tutti i travagli». Lydia annuì. Sistemò borsa e cappotto e si guardò intorno. Un intonaco d'argilla imbiancato a calce rivestiva le pareti di tronchi. L'arredamento era ridotto al minimo. Una stanza angusta e spartana, più adatta al sonno di un mercante di passaggio che ai dolori di una partoriente. Accarezzò il volto di Mary. «State tranquilla, cara. Ci siamo noi». Si rivolse alle altre donne. «Quando è stata visitata l'ultima volta?» «Prima che partissimo è venuta la levatrice», rispose Nancy. «Ha detto che mancavano almeno 3 mesi. Non dovevamo fidarci, non ha nemmeno il diploma». Nancy parlava in fretta, mangiandosi le parole. «Il mio diploma sono 814 neonati», disse Lydia, «senza contare i 4 che ho messo al mondo io. E tu, Tabby, hai figli, vero?» L'indiana annuì. «Quanti parti avete avuto finora, cara?» domandò a Mary. 3. Tutte femmine», rispose lei, con il fiato che cominciava a spezzarsi. Lydia Devon le allungò una mano sul ventre. «Stavolta è un maschietto. Avete la pancia a punta». La levatrice si inginocchiò sul pavimento, spalmò la mano con olio di lino ed esaminò la paziente. Mary trattenne il respiro. Le pareti della stanza si contraevano a ogni spasmo. «Lo sento», comunicò Lydia un attimo dopo. Sospiri e benedizioni accolsero la notizia. Mary alzò la testa dal petto e si limitò a gemere. «È bello grosso, vedrete, e siccome stava un po' stretto, si è messo di traverso, cerca di uscire con la spalla. È per questo che fate tanta fatica». Si tirò in piedi, prese la mano della paziente e la fissò negli occhi. «Ora, signora Johnson, vi facciamo sdraiare e cerchiamo di girarlo, d'accordo? Intanto Tabby ci prepara un impacco di lana nera, brandy e pepe. Trovi tutto nella mia borsa, cara, e farei portare del tè per rinvigorirci tutte. Ne avremo bisogno». Gli uomini del concilio avevano dato fondo ad altre bevande. I più erano già ubriachi quando Guy Johnson si alzò, domandò scusa e montò in sella con l'uomo che gli aveva portato il messaggio. Il bambino non era ancora nato. La signora Claus domandava la sua presenza. Appena messo piede a terra, entrò dalla porta secondaria e avanzò di slancio verso la stanza di Mary. Pochi passi e subito rallentò, disorientato. Gli impegni politici non gli avevano consentito di essere presente per la nascita delle figlie. Si aspettava grida laceranti che riempissero la stanza come l'aria una canna d'organo. Ora, davanti al silenzio, non sapeva che pensare. Bussò alla porta. La serva aprì. Poi si fece da parte e uscì la padrona. «Come andiamo?» chiese lui. L'espressione sul volto magro di Nancy lo incupì. «Non bene, Guy. Era meglio chiamare il dottore da subito, come l'altra volta». Guy storse la bocca. «Lo sapete che Mary non vuole uomini attorno. Per questo vi ho fatto chiamare. Se lei sapesse che siete d'accordo, accetterebbe». «Va bene», sospirò. «Ditele pure che mi avete parlato e mandatemi notizie. Devo far presenza ancora un poco». Fece per andarsene, ma la voce della cognata lo trattenne. «E del vostro parto non mi date notizie? Ci sarà guerra?» «La guerra c'è già, ma i Sakem preferiscono fare finta di niente». In quel momento entrambi notarono 3 sagome bianche in fondo alle scale. Le figlie di Guy e Mary erano lì, in piedi. Le lunghe camicie da notte strisciavano per terra. Si tenevano per mano. Gli occhi luccicavano nella penombra. «Che ci fate qui?» le sgridò Nancy. «Tornate subito a letto!» Le ragazzine non si mossero. Sara era sull'orlo delle lacrime. «La mamma sta male!» disse con un filo di voce. Guy incrociò lo sguardo vitreo di Esther ed ebbe un brivido. Non seppe cosa dire. Si voltò e lasciò la casa. Nancy le spinse su per le scale mentre la più piccola iniziava a piangere. «Se volete bene a vostra madre, pregate per lei con quanta fede avete». Mancavano poche ore all'alba quando Guy riprese posto attorno al fuoco. I racconti di caccia e di sogni non finivano mai. Molti giacevano accasciati sull'erba. Scrutò il proprio volto riflesso sul vetro di una bottiglia e gli apparve deforme, mostruoso. Avrebbe voluto che il vecchio fosse lì, con la sua saggezza, per aiutarlo a partorire il futuro. Avrebbe voluto che il tempo scorresse più veloce. «Ora tanta gente sta in questo posto, ehi, nel luogo del nostro raduno. Comincia quando due si guardano l'un l'altro. Ehi, si salutano, ehi, l'un l'altro. Noi ci salutiamo, l'un l'altro. Oh, yei. Ehi, yohu, heia, heia, heia. Ehi, yohu, heia, heia, heia». Figure spettrali danzavano intorno al fuoco, ombre arrossate, girandola di muscoli sudati e piedi battuti sul terreno. Incantato dalle fiamme, Guy respirava effluvi d'alcol che salivano da ogni parte. Al suo fianco, John Butler sussurrava parole incomprensibili. I canti proseguivano senza sosta, accompagnati dai violini di Peter Johnson e Daniel Klaus. «Allora lui pensò, facciamo la terra, che un po' di persone ci cammineranno sopra. Io li ho creati e ora è successo. Noi ci camminiamo sopra, oh yei. In quest'ora del giorno, hey, rendiamo grazie, hey, alla terra. Nei nostri pensieri deve essere così, nei nostri pensieri deve essere così». Dall'altra parte del cerchio gli parve di vedere occhi scuri che lo fissavano. Joseph Brandt, o forse ancora la sua stessa immagine deformata da un gioco di riflessi. Fu soltanto un attimo, poi il vortice dei danzatori riempì di nuovo la notte. «Hey yohu, eia, eia, eia, hey yohu, eia, eia, eia». La partoriente era accasciata su una seggiola, con un cuscino dietro la schiena e una donna cayuga a sorreggerla per le ascelle. In piedi, davanti a lei, Tabby le massaggiava i fianchi, mentre la levatrice, per l'ennesima volta, si sforzava di girare il bambino. «Stare tranquilla, cara», ripeteva di quando in quando. «Si è girato, è pronto a uscire. I dolori sono regolari, molto promettenti. Con l'aiuto di Sant'Anna, la natura farà il suo dovere». Mary Johnson non aveva più la forza per sorridere. Il viso gonfio, imperlato di sudore, era fisso in un'espressione di sofferenza e rassegnazione. La fronte scottava di febbre. Intorno alla sedia, le donne si alternavano nell'offrire consigli, ricordi rassicuranti, brodo di pollo e rum. «È arrivato il dottor Savage, signora», disse una voce da dietro la porta. La levatrice raccolse un asciugamano e andò a pulirsi al catino. Mary fece segno all'indiana di sospendere il massaggio, si abbassò la camicia da notte e pregò la serva di far entrare il nuovo arrivato. Terminate le domande di rito, il dottor Savage chiese chi fosse la levatrice. La donna si fece avanti. «Molto bene, signora Devon. Vi sarei grato se voi e le altre donne voleste spostare la signora Johnson sul letto. Posso chiedervi che cosa le è stato somministrato finora? La donna rispose che aveva applicato un impiastro sullo stomaco della partoriente e cipolle affettate sui piedi, aveva frizionato le tempie con aceto e fatto bere tè, brodo, mezzo bicchiere di rum e uno sciroppo di verbasco. Il dottore annuì. «Molto ben fatto, signora Devon, ma temo che avremo bisogno di una terapia più robusta». Estrasse una boccetta dal suo armamentario, ne versò 20 gocce su un cucchiaio e si avvicinò al letto. «Ecco, signora Johnson, questo vi darà sollievo. È laudano e in capo a pochi minuti eliminerà la tensione muscolare in eccesso, che è dovuta a false doglie». «Permettetemi, dottore», si inserì la levatrice. «Le doglie sono tutt'altro che false». Ho toccato la mia paziente diverse volte e... Mary Johnson arrossì. La prego, signora Devon, non ci mettete in imbarazzo. Anche se fossero vere doglie, come dite voi, è abbastanza chiaro che la mia paziente ha bisogno di recuperare le forze, altrimenti i muscoli saranno troppo deboli per sopportare la fatica. E anche voi, signora Devon, se volete riposarvi un paio d'ore e rimandare queste donne alle loro famiglie, fate pure. Avrò bisogno del vostro aiuto più tardi, quando le doglie riprenderanno. Così dicendo, infilò la punta del cucchiaio in bocca alla partoriente e le porse un fazzoletto per asciugare le labbra. Di lì a poco, Mary Johnson dormiva un sonno profondo. Come ogni notte, Philippe Lacroix incontrò moglie e figlia. Camminavano insieme nell'erba alta, fino alla soglia di casa. Loro entravano, lui restava sulla porta a ripulire il fucile. Una volta dentro, si accorgeva che la donna non era sua moglie. Era Molly Brandt. E la bimba non era sua figlia, ma una ragazzina bionda. Molly gli andava incontro, slacciava dal polso un bracciale di wampum e lo posava ai suoi piedi. «Per dimenticare è necessario conoscere», diceva. «Per rinnegare bisogna anche credere. Quando l'hai ricevuto questo bracciale, aveva un valore. Quando l'hai restituito, ne aveva un altro. Salda il conto o perderai l'equilibrio. Non tornare a mani vuote, rona terionte». Detto questo, il bracciale sprofondava nel terreno, spalancando un abisso al centro del capanno. Philip si svegliò madido di sudore e con una strana vertigine. Il sole era sorto e i guerrieri spartivano i doni degli inglesi. Sulla riva del lago, una flotta di battelli attendeva il carico. Mary si risvegliò alle 4 del mattino. I dolori erano tornati e un improvviso attacco di vomito sembrava dovesse rompere gli indugi, facendo nascere il bambino dalla parte dei denti. La donna che la vegliava si precipitò a sollevarle la testa. Le infilò un altro cuscino dietro la schiena e chiamò rinforzi. Tabby si levò sulla sedia, seguita dalla levatrice che riposava su un paio di coperte. Subito infilò la cuffia, si unse le mani e controllò la situazione. Per la prima volta dall'inizio del travaglio, Mary cominciò a gridare. Non urla vere e proprie, piuttosto un rosario di lamenti, modulati su note gravi e acute. Abbastanza penetranti da svegliare il dottor Savage, sdraiato su una delle panche nell'anticamera. «I dolori sono molto frequenti», spiegò la levatrice, «ma il bambino non ce la fa ancora. Forse ha il cordone attorcigliato al collo. Tabby, vuoi darmi una mano?» L'indiana si avvicinò. Fece notare che la signora Johnson aveva una collana e che era meglio toglierla. Con braccia tremanti, la schiena inarcata dalla tensione, Mary infilò le mani dietro la nuca. «Bando alle superstizioni», le gelò il dottore. «Se c'è rischio di soffocamento, occorre intervenire». Con gesto sicuro estrasse il forbice dalla borsa, ordinò alla levatrice di sistemare le ganasce, si piegò appena sulle ginocchia e cominciò a tirare. Mary pregava. Tabby le asciugava la fronte con un fazzoletto bagnato d'aceto. Lydia Devon, a cavalcioni sul letto, di schiena alla paziente, premeva sulla pancia per aiutare l'espulsione. Il dottore si rialzò, lasciando il ferro in posizione. Sudava. Chiese che gli portassero una pezza. La fece legare stretta allo snodo del forpice e istruì la levatrice perché tirasse con quella verso il basso, mentre lui continuava ad agire sulle branche del suo arnese. Lydia accettò con riluttanza, bevve un sorso dalla bottiglia di rum, si accovacciò e fece come le aveva detto il dottore. Una donna Seneca tracciava segni e simboli sulla pancia di Mary Johnson. Nonostante gli odori che si mescolavano nella stanza, alcol e sudore, febbre e miasmi del corpo, brodo e infusi di erbe, la levatrice distinse subito quello del sangue. Si sollevò di scatto, recuperò la borsa, ci frugò dentro con le mani ancora sporche, estrasse una grossa siringa e un'ampolla di vetro. La porse a Tabby. Spalmale questo sui lombi, ordinò. Bisogna fermare l'emorragia. Quindi riempì la siringa da una piccola scodella d'acqua, l'unica rimasta pura. Scostò il dottore, si inginocchiò di nuovo, estrasse il forbice, puntò la siringa dentro la donna. «Nel nome del Padre», sussurrò, pompando il primo schizzo d'acqua, «del Figlio e dello Spirito Santo». Appoggiò a terra la siringa e allungò una mano sul volto della paziente. Mary Johnson respirava fatica. La febbre saliva e altrettanto faceva il sole, lento e impacciato, incapace di sfuggire all'abbraccio delle paludi. Joseph avvolse le sue cose in una coperta e la legò con una cinghia di cuoio. Percepì una presenza. Si voltò appena. La Croix era in piedi alle sue spalle. «Torni a casa?» chiese Joseph. «E tu?» «Non sapevo dell'ordine di Gage. Non sei tenuto a seguirci in Canada». La Croix sedette su una roccia e prese a caricare la pipa con grande flemma. Joseph appoggiò il bagaglio e affiancò l'amico. Nell'anticamera Nancy Johnson piangeva senza rumore, solo lacrime e sussulti, una mano sulle labbra a frenare i singhiozzi, l'altra a stringere lo stomaco. Appena lo vide, andò incontro al cognato e provò a trattenerlo. «Non entrate, Guy, non adesso!» Lui la scostò col braccio e afferrò la maniglia. C'era soltanto la levatrice dentro la stanza. Teneva in braccio il cadavere del bambino, avvolto in fasce. Sei piccoli amuleti pendevano dal collo livido e coprivano il minuscolo petto. Anche Lydia Devon piangeva. Da quando aveva iniziato il mestiere, le erano morti solo 4 nascituri. Mai una simile disgrazia. Mary era sdraiata nel sangue, nuda, immobile, il taglio che squarciava la pancia. Guy chiuse la porta di scatto per scacciare l'orrore. Strinse i pugni e respinse la mano di Nancy. Gli sembrò che il mondo vacillasse.